1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, a leggere i giornali. Sono le 7:21 minuti, ben arrivati se siete arrivati solamente ora, come dico sempre, razza di pigroni e debosciati che non siete altro. Noi siamo in onda dalle 6:30 e che dire, oggi parleremo più avanti con i nostri ospiti intanto di questa idea definita anche dal Manifesto ieri pazza idea del reddito minimo garantito. Ci provano, c'è stata una raccolta di firme per farne una legge popolare, un'iniziativa popolare. Avremo con noi un deputato del Movimento 5 Stelle, Walter Rizzetto. Avremo con noi Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni. Poi ci sarà e ci raggiungerà anche alle 8:45 Stefano Fassina, che è deputato del PD, responsabile economico del PD, per parlare di questo e altro, insomma, l'attualità politica, anche il Quirinale, la lotta per la corsa per il Quirinale, che è un po' il tema con cui aprono la maggior parte dei giornali che andiamo appunto a sfogliare. È mercoledì 17 aprile. Le aperture alternative sono Il Sole 24 Ore, che apre con questa notizia: cede l'export italiano in Europa. Ma poi tutti gli altri quotidiani, eccola qui la carrellata sul Quirinale. Quirinale, i nomi per l'intesa. Così il Corriere della Sera: Amato e D'Alema favoriti, Grillo, Gabanelli o Rodotà. Repubblica, Colle in lizza, Cassese e Amato. La Stampa, Amato o D'Alema. Il Fatto Quotidiano, Gabanelli o Rodotà. Poi dialogo con il PD, è un'intervista a Beppe Grillo, poi la vedremo perché è talmente rara. Il Fatto Quotidiano oggi intervista a Beppe Grillo. Il Messaggero, si tratta su D'Alema e Amato. Libero mette un disegno, una caricatura di Romano Prodi, campagna contro Prodi, io non posso entrare, c'è il segnale di divieto d'ingresso per Prodi, questa è la campagna che vuol fare Libero. Il Giornale, il trappolone, la corsa al Quirinale, nel segreto del voto, dice Berlusconi, può accadere di tutto. L'Unità, Amato, Marini o Mister X? Il Manifesto mette una foto di Rodotà con il titolo Il più amato. Mentre Il Secolo XIX, Rodotà presidente, l'offerta di Grillo, insomma, vedete, è tutto un toto nomi. D'altronde domani c'è la prima votazione alle 10, 1007 grandi elettori voteranno, e quante volte si voterà? Due al giorno, e sembra un po' difficile un'intesa per un voto alle prime tre votazioni, o almeno alle prime quattro votazioni, poi c'è la maggioranza assoluta e quindi forse si può ottenere più avanti una votazione. Comunque staremo a vedere, mancano 24 ore, ci saranno un gran balletto di novità. Io voglio aprire per ancora una volta, come ieri, con quello che è successo a Boston, dove ci si interroga su questa tragedia, ci si interroga intanto sulle piste da seguire. Obama ha detto: sappiamo solo che è terrorismo, non sappiamo al momento nulla di più. È vero che secondo alcuni siti è stato fermato un cittadino saudita che viene interrogato, è rimasto ferito, per qualcuno potrebbe essere semplicemente un passante, per qualcun altro invece potrebbe essere parte di una cellula addirittura saudita di tre persone, ma in realtà sono tutte indiscrezioni, non si sa molto di più. Quello che invece si sa, infatti il titolo di Avvenire è Terrorismo senza volto. Quello che invece vedrete, troverete se comprerete qualsiasi giornale oggi, è il volto di quello che è diventato già il simbolo di questa tragedia di Boston, vale a dire Martin, bambino di 8 anni rimasto vittima, una delle tre vittime di questa tragedia. Tutti i giornali pubblicano in prima pagina questa foto, che è anche difficile da sostenere emotivamente guardandolo in faccia, questo bambino di 8 anni che espone un cartello: No more hurting people, peace, cioè non fate più male alle persone, pace. È davvero incredibile il messaggio di questo bambino, che qualche mese fa espose questo cartello a una marcia per la pace e ora è rimasto vittima di questa tragedia. Anche la Gazzetta dello Sport mette in prima pagina: morire a 8 anni e commuovere il mondo. Ma tutti i giornali si concentrano, come il Quotidiano Nazionale, Martin, fine di un piccolo angelo, dilaniato mentre corre dal papà, oppure il Messaggero, Martin ucciso a 8 anni mentre guarda la maratona. L'articolo più intenso su questa storia di questo bambino è di Paolo Mastrolilli, lo trovate sulla Stampa, pagina 3. Martin ucciso a 8 anni mentre aspettava il papà al traguardo. Scrive Mastrolilli: era circa un anno fa quando Martin Richard aveva deciso di partecipare a una marcia per la pace che si svolgeva a Boston. Ma cosa può fare un ragazzino di terza elementare per fermare la violenza nel mondo? Nulla, ovviamente. Se però tutti ragionassimo in questa maniera, il mondo resterebbe immobile. Allora Martin, incoraggiato dal padre Bill, che fa l'attivista nella sua comunità di Dorchester, si era organizzata, aveva preso un cartone, i pennarelli, si era messa a disegnare, in mezzo al cartello aveva piazzato questa grande scritta: No more hurting people, peace, basta far male alle persone, pace. Così, orgoglioso del suo lavoro, si era avviato alla marcia. Oggi Martin, 8 anni, non esiste più. È morto lunedì davanti al traguardo della maratona di Boston, dove era andato con mamma e sorella per applaudire l'arrivo del papà. E c'è questa storia, ieri comprensibilmente poi i media di tutto il mondo, i media americani, si sono lanciati in una corsa anche per cercare di ottenere qualche intervista. La famiglia di Bill ha emesso solo un comunicato: vi chiedo di pregare per la mia famiglia, avere pazienza per la nostra privacy mentre affrontiamo questo dolore. Beh, d'altronde tutte le tragedie hanno un simbolo, o più simboli. Sicuramente la foto di questo bambino Martin è il simbolo che troverete sulle prime pagine dei giornali oggi. Vi voglio dare questa segnalazione interessante che ho trovato sul Corriere della Sera e che riguarda il mondo globalizzato o no globalizzato, e quindi anche l'America. È un interessante. Avete presente la maschera di Anonymous, no? Quella maschera con i mustacchi e pizzetto neri, ghigno inquietante preso dal film V per Vendetta. Ebbene, interessante quello che scrive in prima pagina il Corriere della Sera: la maschera anti-ricchi aiuta i ricchi. È un articolo di Danilo Taino che dovrebbe far riflettere molto. Manifestare contro il sistema allo stesso tempo finanziarlo non è una contraddizione, in realtà è quello che succede alla maschera di Anonymous, usata dai manifestanti in tutto il mondo per protestare contro la finanza, contro le strutture organizzate, contro il capitalismo. Ebbene, sapete che quella maschera, che costa dai 6 ai 50 dollari, i ricavi di quella maschera vanno alla ricca famiglia americana beige, produttori di oggettistica per Halloween, e vanno anche alla Time Warner, produttrice del film, e vanno anche ad Amazon, che del film distribuisce i consumi. L'articolo completo lo trovate a pagina 23. La maschera di Anonymous fa ricca una multinazionale. I diritti sul volto antisistema vanno infatti alla Warner. E scrive Danilo Taino: il movimento anticapitalista che ha insomma finanziato un produttore della old economy, un rentier dei media e di Hollywood, uno dei grandi protagonisti della new economy, è un paradosso antico. È la famosa capacità del capitalista di produrre la corda a cui sarà impiccato, se siete marxisti, oppure la famosa capacità del capitalista di rigenerarsi in tutte le circostanze, se siete schumpeteriani. E insomma, interessante e da far meditare questo articolo che pubblica Danilo Taino. La maschera viene riprodotta, è universalmente riconosciuta, è la maschera utilizzata per molti per combattere contro il sistema e che finanzia parte di quel sistema. Tuffiamoci nella lettura delle innumerevoli pagine che ci accompagneranno fino all'elezione del Presidente della Repubblica. Ci sarà domani, ai primi due scrutini, al primo giorno. Domani alle 10 inizia la chiama, questa lunghissima procedura in cui 1.007 persone dovranno mettere, dopo essere passate attraverso il catafalco, il voto nella insalatiera. E poi ci sarà, pensate, 1.007 scrutini coi nomi letti ad alta voce. Vabbè, è il rito giusto dell'elezione del Presidente della Repubblica. Oggi i giornali sono, ma non pieni, esondano di retroscena: e sale Amato, e no sale D'Alema, e sale Prodi, e sale Cassese, e c'è Mister X, c'è Marini, e poi chi c'è? Poi c'è la Gabanelli. Allora io voglio partire dal Fatto Quotidiano, perché al di là di tutti retroscena, almeno dal punto di vista della rarità, parità c'è un qualcosa che, sì, che emerge, cioè un'intervista a Beppe Grillo, intervistato da Emiliano Liuzzi a pagina 2-3, Bersani voti i nostri al colle e poi si dialoga. Alle Quirinarie, sapete, è stata scelta Milena Gabanelli, che oggi dovrà decidere che fare dopo averci pensato questa notte. Dico a Bersani di votare Gabanelli, così dice Beppe Grillo. Date questo segnale, poi vediamo. Noi abbiamo già alcune proposte, come quelle per una vera legge anticorruzione. La Gabanelli dice: non me l'aspettavo, non mi aspettavo quel nome, ero convinto che uscisse Gino Strada o forse Stefano Rodotà. Comunque, se rinuncia, ed è molto probabile, il terzo nome, appunto dopo Gabanelli e Gino Strada, è Rodotà. Poi Beppe Grillo parla d'altro. Prodi: non gioco nessuna carta, non so onestamente se lui è la figura che serve a questo paese in questa fase, non è certo l'uomo del cambiamento. E poi Amato: se il PD vuole votare il braccio destro di Craxi, facciano pure. Così Beppe Grillo impallina Giuliano Amato. E ancora ce l'ha anche con Napolitano. Sapete che dopo l'incontro sembrava che ci fosse un po' più di riavvicinamento tra colui che lo aveva definito per anni Morfeo, cioè Beppe Grillo, e il presidente dello Stato uscente. Invece Beppe Grillo dice al Fatto: sono rimasto deluso da Napolitano, è stata una delusione, ci siamo lasciati in un modo, poi lui è tornato coi saggi per prendere tempo. E ancora sul Movimento 5 Stelle: ci proveranno a fermarci, ma il movimento non è un fenomeno isolato o passeggero. Certo, abbiamo già messo in conto che perderemo dei parlamentari per strada, hanno già provato a comprarseli, ma è nella natura delle cose che se ne perda qualcuno per strada. Riguarda la mia vita privata, non voglio scorte, ma la mia famiglia ha paura, mia moglie, i miei figli, mi trovo persone più svariate sotto casa, alcuni hanno i microfoni, altri invece non so chi siano, ma non intendo cambiare il mio modo di vivere. E ancora Beppe Grillo dice di se stesso: io vengo dipinto come anti-europeista, ma non c'è niente di più falso, mi aspettavo in Europa diversa, con un cammino diverso, si è fatta la moneta unica, poi si parlano 11 lingue diverse e non voglio neppure l'abolizione dell'euro, voglio che sia un referendum a decidere. Insomma, questo è il Beppe Grillo pensiero che trovate a pagina 2-3 del Fatto Quotidiano. Milena Gabanelli che fa? Ci pensa questa notte. Ha fatto una breve intervista ieri a Ballarò. Ci sarebbe stata una chiamata tra Beppe Grillo e la Gabanelli, nel senso che Gabanelli voleva già rinunciare ieri, secondo alcune indiscrezioni, poi Beppe Grillo l'ha chiamata, ha detto: ma no, prova a pensarci. E oggi al Corriere della Sera, dove collabora tra l'altro, dice qualcosa Giovanna Cavalli a pagina 13: è una botta in testa che mi mette in imbarazzo, dice la Gabanelli, sono sorpresa, riconoscente, imbarazzata al tempo stesso, ci penserò stanotte. Accettare, ci penso. Dunque è ancora un'ipotesi in campo, quella di Milena Gabanelli. Per il resto è tutto un profluvio di retroscena. Allora iniziamo dal Sole 24 Ore. Emilia Patta a pagina 13: Bersani stringe in poll D'Alema e Amato. Giuliano Amato e Massimo D'Alema sono questi, secondo il Sole 24 Ore, i nomi in pole position. Tra l'altro stasera o al massimo domattina dovrebbe esserci quell'incontro tra Bersani e Berlusconi che doveva essere fissato ieri e poi è stato rinviato. Spunta anche la candidatura di Luciano Violante. Questi sarebbero i tre nomi graditi al PD, al PDL, insomma, quelli per trovare l'accordo: Amato, D'Alema o Violante. Questo secondo il Sole 24 Ore. Secondo il retroscena di Francesco Verderami, pagina 9 del Corriere della Sera, addirittura Berlusconi ieri si aggirava con i suoi a dire: con Bersani è fatta. E infatti il titolo del Corriere è proprio questo: il Cavaliere, con Bersani è fatta, una stretta di mano al telefono. Berlusconi evoca un accordo di ferro con leader democratica. Direi che è fatta con Bersani, annunciava ieri pomeriggio Berlusconi. È finita la fase tattica, c'è un accordo di ferro. Solo che il Corriere si chiede: diceva la verità o stava bluffando? Tutte e due. L'uso del condizionale, quel direi, l'accordo è fatto, direi, lo testimoniava. E infatti uno va su Repubblica e legge: la trattativa è bloccata. Insomma, quindi il Corriere della Sera per Berlusconi: l'accordo è fatto. Repubblica, prima pagina: la trattativa è bloccata. L'articolo di Goffredo De Marchis, retroscena, che inizia pagina 1. pesa l'intreccio tra Quirinale e governo, la trattativa è bloccata. Bersani e Berlusconi condividono l'analisi ma non la soluzione. Poi via due, pagina 2, 3 di analisi sui nomi, il risico, metti questo, forse Amato, nelle mille voci che si rincorrono, scrive Repubblica, c'è una anche questa, uno scenario da brividi, viene dichiarato il fallimento della trattativa su Amato per paura dei franchi tiratori, così le prime tre votazioni si esauriscono coi candidati di bandiera e dalla quarta al riparo da numeri in bilico, Amato rispunta e passa senza problemi. Ecco, questo sarebbe lo scenario da brividi raccontato da Repubblica. Insomma, se volete esercitarvi nel brividi, nella fantapolitica, nei gialli, ce n'è anche questa, per esempio, il giornale. Romano Prodi oggi parte e va in Africa. Sapete che ha delle missioni che compie per l'ONU. Sabato invece D'Alema va in Cina. Che vuol dire? Boh, non lo so, però il giornale ve la pone, io la giro a voi leggendo la rassegna stampa. Oppure c'è Romano Prodi che racconta il Messaggero con Mario Aiello a pagina 5. Ieri si è presentato alla Università Pontificia, convegno sull'Europa. Alla domanda, io sarei una persona che divide? Perché questa è l'accusa, Prodi spacca, io sarei una persona che divide? Chiedetelo a mia moglie. Ha risposto Romano Prodi, che era a fianco a lui, e Flavia sorride lasciando intendere ciò che anche il marito sta intendendo: no, che non divide. E allora eccolo, scrive Aiello, il ribaltamento del cliché secondo cui lui sarebbe l'antipacificatore, cosa che sta ovviamente a cuore al professore, il quale non si riconosce affatto nella vulgata diffusa perfino in certi settori del partito che ha inventato, il PD, in quello shakespeariano poco dico o nulla, a parte la sua battutina divagante sul chiedete a mia moglie, c'è la rivendicazione di un'identità che secondo il suo titolare non è affatto quella dell'eterno uomo da combattimento, del simbolo del non dialogo con Berlusconi. E se poi invece Prodi si trasformasse in un arbitro una volta arrivato sul colle, chi può escluderlo? Sta di fatto che, insomma, a questa domanda, io sarei uno che divide, chiedetelo a mia moglie. Ecco, questa è la dichiarazione ufficiale di Romano Prodi in vista della corsa al Quirinale. Riguardo a Milena Gabanelli, gli hanno chiesto un commento: non dico nulla per evidenti motivi. Ecco, questa è l'altra dichiarazione di cui ci si deve accontentare. L'Unità mette in prima pagina che cosa? Amato, Marini o Mister X? Vabbè, ovviamente i nomi sono quelli che girano, sapete, Amato, Marini, D'Alema, Prodi, Cassese, Sabino Cassese, Rodotà anche, Rodotà, il manifesto gioca molto su Rodotà perché, come ha detto anche Beppe Grillo, dovessero rinunciare i primi due vincitori delle Quirinarie, cioè Milena Gabanelli e chi è il secondo? Gino Strada, ecco allora che c'è Rodotà, ma comunque sono paginate così, ho trovato almeno 30-40 pagine sui giornali di, appunto, ecco, il Corriere, ancora pagina 8, consensi per Amato, ma restano in gioco Prodi e D'Alema. La Stampa, pagina 9, nella rosa dei democratici spunta il nome di D'Alema, secondo la Stampa è D'Alema. Libero invece inizia la campagna contro Prodi, mette una faccia di Prodi in un divieto d'accesso, fermiamo Mortadella, questo è l'imperativo di Maurizio Belpietro. Sta di fatto che intanto continua la questione degli incompatibili per l'ennesimo giorno sui giornali, ci sono molti incompatibili, 30 incompatibili in Parlamento, titola la Stampa a pagina 12, chiedendosi ma com'è possibile che 30 persone che sono palesemente incompatibili possano votare, e quindi violano la Costituzione, possano votare il garante della Costituzione. Grazia Longo, dopo l'incarico illegittimo, doppio incarico, scusate, illegittimo per i grandi elettori, con Grasso che ha detto a grandi elettori corrispondono grandi responsabilità. Sì, Presidente Grasso, questa è una pia illusione. Virginia Piccolillo sul Corriere a pagina 10, Grasso agli incompatibili, scegliete a grandi elettori grandi responsabilità. Secondo voi come rispondono questi grandi elettori che dovrebbero scegliere? Se ne fottono, questa è la verità, e stanno lì incompatibili, e ci sono molti casi. Viene citato anche Domenico De Siano, quello che ieri era il nostro ospite, che a Napoli veniva chiamato Mister Quattro Poltrone, consigliere comunale, provinciale, regionale, senatore. La Camera attende la notifica della decisione. Ma come la... Ma ieri lui ci ha detto che lui ha notificato tutto, mi verrebbe voglia di richiamarlo e fargli un quarto grado. Ma ci aveva detto che aveva notificato tutto, c'è stata la surroga al Consiglio regionale della Campania. Mi auguro per lui che sia vero, perché se no lo richiamiamo e ci arrabbiamo di brutto. Oppure, insomma, tutto un elenco, 30 incompatibili. Virginia Piccolillo ricorda nome e cognome sul Corriere della Sera. Emma Bonino, dimenticavo, uno via messaggio metto Emma Bonino tra i nomi, è vero anche Emma Bonino. Vorrei rispondere anche all'ascoltatore che mi scrive: caro Alessandro Milan, sono stanco di sentirmi dare del debosciato perché mi sveglio alle 7:15 per ascoltare la sua rassegna stampa. Io vado a letto all'1 e poi in Italia non c'è solo lei che comincia a lavorare alle 6. Sì, però mi sveglio alle 5 e oltretutto non si lamenta. Ma su, caro Tito, grazie per questa reprimenda. Ora faccio una bella cosa, faccio un bel sorriso, magari così, no? Faccio un bel sorriso, è una battuta, no? Da fastidio? Si faccio ogni tanto delle battute. Vabbè, comunque, il caso Montepaschi. Beh, ieri c'è stato uno sviluppo abbastanza clamoroso, come racconta il Sole 24 Ore, pagina 8. Vale a dire un sequestro da 1,8 miliardi a Nomura, la banca giapponese che ha stipulato con Montepaschi questi titoli strutturati Alexander, che avrebbero fatto perdere moltissimi soldi alla banca di Siena. Marco Ludovico e Sara Monaci raccontano un sequestro senza eguali in Italia, un'ipotesi di reato inedita. Tutto ruota intorno all'inchiesta su Montepaschi. Ieri la Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Siena, ha sequestrato a carico di Banca Nomura 1,78 miliardi di euro, di cui 88 milioni costituiti da commissioni occulte percepite dalla banca giapponese per il prodotto strutturato Alexandria, e 1,7 miliardi depositati da Montepaschi in favore di Nomura a titolo di garanzia sul finanziamento da quest'ultima ricevuto, come si legge nella nota della Procura di Siena. Nel decreto di sequestro c'è anche l'accusa pesantissima di usura, truffa aggravata, reati che alcuni responsabili di Nomura avrebbero commesso ai danni della banca senese con la complicità degli ex vertici del Montepaschi. E tra l'altro a questa maxi operazione si aggiungono sequestri a carico dei passati vertici di Montepaschi. A Mussari, Giuseppe Mussari, ex presidente, sequestrati 2,3 milioni in beni e immobili. All'ex direttore generale Vigni, 9,9 milioni in beni e immobili. All'ex responsabile finanziario Gianluca Badassarri, 2,2 milioni. A quest'ultimo erano già stati sequestrati una ventina di milioni. Beni e immobili ne avevano, Ne hanno, certo, la procura ora ha sequestrato tutto. Comunque, sequestro da 1,8 miliardi a Nomura, e così anche il Corriere della Sera: sequestrati conti e case a Mussari e Vigni, racconta Fiorenza Sarzanini. Questo lo sviluppo del Montepaschi Siena. A proposito di situazione economica, di crisi, spesso si dice l'imprenditore in crisi. Leggete la storia incredibile, per carità è un ritaglio di pagina 13, in taglio basso, che c'è su Libero, ma queste sono le piccole, grandi fotografie spaccato del paese. Eccola qui, Alessandro Gonzato, gli fanno causa per il debito di un centesimo. Un centesimo! Un imprenditore che ha crediti per centinaia di migliaia di euro, che non riesce a riscuotere alcuni dei crediti anche con lo Stato, si è visto ricevere un'ingiunzione di pagamento di un centesimo di euro da versare tassativamente entro 10 giorni dallo stesso Stato dal quale aspetta parte dei debiti. La storia strapperebbe un sorriso se non fosse che ormai tra mala burocrazia e mala giustizia si sta abituando a tutto in questo paese. È la storia di un'azienda leader nel settore dell'impiantistica con sede nell'est veronese, è la Sinectra di Villabella. Franco Castelli è il titolare, che dice: non pago nemmeno per idea. Un centesimo penso che ce l'abbia da pagare, ma giustamente tiene duro e dice: liquida tutto come una barzelletta. Oltretutto i miei dipendenti hanno controllato le fatture e a noi quel debito non risulta proprio. Ripeto, debito da un centesimo con decreto di ingiunzione. soltanto un'azienda mi deve 800.000 euro, un ente statale mi deve dare dei soldi da 2 anni e ora devo subire anche l'onta di essere passato dalla parte dei furbetti, di quelli che ritardano i pagamenti e creano un effetto domino devastante nell'intero mercato, e ha subito l'ingiunzione di pagamento di un centesimo di euro da pagare entro 10 giorni. E va bene. Concludo con 2 notizie flash. Fabri Fibra escluso dal concertone di 1° maggio, una vergogna, uno dei miei miti, Fabri Fibra, perché farebbe canzoni misogine. Ma per favore, donne contro Fibra espulso dal concertone, a pagina 37 del Corriere della Sera. E poi il ministro dell'Ambiente Clini, che ha detto ieri a Un Giorno da Pecora, ripreso oggi da tutti i giornali, ci si può cambiare le mutande per risparmiare ogni 4 giorni. Si fa la doccia, si mettono le mutande lì, si lascia prendere aria e si mettono le mutande per 4 giorni, le stesse mutande. E vabbè, l'eco consiglio di Clini, cambiarsi ogni 4 giorni, il ministro dell'Ambiente puzzone anche, mannaggia.